Capitolo 37. La mietitrice il cui nome è morte. Matthew, Matthew, cos'hai, Matthew? Ti senti male? Fu Marilla a urlare, ogni parola piena di angoscia. Anna entrò in ingresso con le braccia cariche di narcisi bianchi. Ci volle parecchio prima che riuscisse nuovamente ad apprezzarne la vista o il profumo, appena in tempo per sentirle vedere Matthew in piedi sulla porta della veranda, con un foglio ripiegato in mano, il viso terreo e tirato. Anna lasciò cadere i fiori e si precipitò insieme a Marilla attraverso la cucina. Arrivarono entrambe troppo tardi, prima che potessero raggiungerlo. Matthew era crollato a terra. «È svenuto!» esclamò Marilla. «Anna, corri, corri a chiamare Martin! Fai presto, è nel fienile!» Martin, il bracciante, era appena tornato dall'ufficio postale e ripartì immediatamente in cerca del dottore. Mentre passava, si fermò a Orchard Slope per avvertire i signori Barry e mandarli a Green Gables. Con loro arrivò anche la signora Lind, che era dai Barry per una commissione. Appena arrivati, i tre trovarono Anna e Marilla che, sconvolte, cercavano di far riprendere conoscenza a Matthew. La signora Lind le spinse da parte con delicatezza, sentì il polso dell'uomo e gli posò un orecchio sul petto. Guardò i visi ansiosi che la circondavano con aria addolorata e gli occhi pieni di lacrime. «Oh, Marilla!» mormorò mesta. «Non credo che... credo che non ci sia più nulla da fare per lui!» «Signora Lind, lei non pensa che... non sta dicendo che Matthew è...» Anna non riuscì a pronunciare quella parola implacabile. Era pallida come uno straccio e si sentì mancare. «Bambina mia, sì, temo proprio di sì. Guardalo in faccia. Quando avrai visto quell'espressione tante volte quanto l'ho vista io, saprai subito cosa significa.» Anna scrutò il volto immobile di Matthew, vi scorse il sigillo della mietitrice. Quando arrivò, il dottore disse che la morte era stata istantanea, probabilmente indolore, e causata, almeno così pareva, da un colpo improvviso. Il motivo del colpo fu scoperto nel documento che Matthew stringeva in mano, ritirato all'ufficio postale da Martin quella mattina stessa, il resoconto del fallimento dell'Abbey Bank. La notizia della morte di Matthew passò di bocca in bocca in tutta Avonlea e per l'intera giornata amici e vicini riempirono Green Gables in un andirivieni di gentilezze e piccole commissioni per le vive e per il morto. Per la prima volta Matthew, l'uomo più silenzioso di tutti, divenne la persona più importante al centro dell'attenzione. La pallida maestà della mietitrice era scesa su di lui e l'aveva allontanato dagli altri, incoronandolo. Quando la quiete della notte calò dolcemente su Green Gables, la vecchia casa ritrovò il silenzio e la tranquillità. Matthew era in soggiorno nella sua bara, i lunghi capelli grigi incorniciavano il volto sereno, sul quale sembrava leggere ancora un sorriso gentile, come se il vecchio contadino stesse dormendo e facesse bei sogni. Intorno a lui c'erano tanti fiori delle piante profumate e antiche che sua madre aveva piantato in giardino quando era una giovane sposa. Per quei fiori Matthew aveva sempre provato un amore segreto. Anna li aveva colti e glieli aveva portati con gli occhi senza lacrime, pieni d'angoscia, che le bruciavano nel viso pallido e tirato. Era l'ultima cosa che potesse fare per lui. Quella notte i Barry e la signora Lind rimasero a Green Gables. Diana entrò in mansarda. Anna era in piedi accanto alla finestra e le chiese con dolcezza: «Anna cara, vuoi che dorma con te stanotte?» «Grazie, Diana.» Anna fissò seria il volto dell'amica. «Penso che capirai se ti dico che preferisco restare sola. Non ho paura. Non sono rimasta sola neanche un secondo da quando è successo e adesso ne sento il bisogno. Voglio stare in silenzio, tranquilla, perché devo capire. Finora non ci sono riuscita. Ancora non me ne sono resa conto sul serio. In certi momenti mi sembra impossibile che Matthew non ci sia più. In altri, invece, mi sembra che sia morto da tanto e che questo dolore sordo sia dentro di me da moltissimo tempo.» Diana non capì fino in fondo. Le risultava più immediato il tormento palese di Marilla, che con la sua forza travolgente annullava la naturale riservatezza e le abitudini consolidate in una vita, piuttosto che l'angoscia senza lacrime di Anna. Però accettò la sua richiesta e si allontanò, lasciando l'amica sola ad affrontare la sua prima veglia di dolore. Anna sperava che, stando sola, sarebbe riuscita finalmente a piangere. Le pareva terribile non riuscire a versare nemmeno una lacrima per Matthew, a cui aveva voluto un bene dell'anima, che era sempre stato tanto buono con lei. Matthew, che la sera prima aveva camminato a suo fianco nel tramonto, e ora giaceva nella penombra del soggiorno, al piano di sotto, la fronte distesa da una pace orrenda. Invece le lacrime non vennero. Neppure quando Anna si inginocchiò al buio accanto alla finestra e pregò le stelle che splendevano nel cielo sopra le colline. Nemmeno una lacrima, solo quella tristezza sorda, profonda, dolorosa che la schiacciò, opprimente, fino a quando non cadde nel sonno, sfinita dalla sofferenza e dalle emozioni di quella giornata. Quando si svegliò di colpo, era immersa nel silenzio e nell'oscurità, e il ricordo di ciò che era accaduto la travolse come un'onda di dolore. Rivide il volto di Matthew che le sorrideva mentre si separavano al cancello la sera prima, e risentì la sua voce che diceva: la mia ragazza di cui sono così tanto orgoglioso. A quel punto anche le lacrime arrivarono come un'onda, e Anna scoppiò in singhiozzi, aveva il cuore a brandelli. Marilla la sentì e scivolò nella sua camera per consolarla. Su, su, non piangere così, tesoro. Disperarsi non serve a farlo tornare, purtroppo. Non va bene piangere così, me lo sono detta anch'io oggi, ma non riuscivo a trattenermi. Per una vita è stato un fratello, sempre buono e gentile con me. Ma il Signore sa quello che fa. Oh, lasciami piangere, Marilla. Singhiozzò Anna. Le lacrime mi fanno meno male del dolore sordo che provavo prima. Stai un po' qui con me, per piacere, abbracciami stretta. Sì, così. Non potevo far restare Diana. Lei è buona, dolce e mi vuole bene, ma questo dolore non è il suo e non potrebbe mai arrivare abbastanza vicino al mio cuore da aiutarmi davvero. La vera sofferenza è nostra, mia e tua. Oh, Marilla, come facciamo adesso senza Matthew? Prima avevamo lui, Anna, ora io ho te e tu hai me. Non so come farei se non ci fossi tu, se non fossi mai venuta qui. Oh, Anna, lo so che a volte sono stata severa e rigida con te, ma non devi pensare che non ti abbia voluto bene quanto Matthew. Voglio dirtelo qui e ora, perché adesso ci riesco. Ho sempre fatto molta fatica a esprimere i miei sentimenti, ma i momenti come questo lo rendono più facile. Ti voglio bene come se fossi carne della mia carne e sangue del mio sangue. Tu mi hai dato gioia e conforto dal primo istante in cui hai messo piede a Green Gables. Ricordatelo sempre. 2 giorni dopo, Matthew fu portato fuori dalla sua casa, lontano dai campi che aveva coltivato per una vita, dal frutteto che aveva tanto amato e dagli alberi che aveva piantato e fatto crescere. Poi, ad Avonlea, si ristabilì la consueta tranquillità e anche a Green Gables le cose ripresero il loro ritmo abituale. Si tornò alle occupazioni di ogni giorno e si portarono a termine le faccende quotidiane con la stessa regolarità di prima, anche se in tutte le cose familiari c'era un senso di perdita e di mancanza. Anna viveva il dolore come un'esperienza nuova e trovava incredibilmente triste che fosse così, che fosse possibile continuare a vivere anche senza Matthew. Sentiva una fitta di rimorso quando si rendeva conto che la vista del sole che sorgeva dietro gli abeti o dei boccioli rosa pallido che si schiudevano in giardino le dava la stessa gioia, che le visite di Diana erano sempre piacevoli e che le parole allegre dell'amica la facevano ridere. In breve, il meraviglioso mondo di fiori, affetto e amicizia che la circondava non aveva perduto il potere di soddisfare la sua fantasia e di emozionare il suo cuore, mentre la vita continuava a chiamarla con molte voci insistenti. Mi sembra di essere sleale nei confronti di Matthew a divertirmi per queste cose ora che lui non c'è più, confessò la signora Allan una sera in cui si fermarono a chiacchierare nel giardino della canonica. Sento tantissimo la sua mancanza. Penso a lui di continuo, eppure il mondo e la vita ai miei occhi sono ancora belli e interessanti. Oggi Diana ha fatto una battuta e sono scoppiata a ridere. Credevo che non ne sarei più stata capace e in qualche modo sento che non dovrei farlo. Quando Matthew era tra noi, gli piaceva sentirti ridere. Gli piaceva sapere che le cose belle che ti circondavano ti rendevano felice, le disse con dolcezza la signora Allan. Adesso è come se lui fosse via, ma gli fa comunque piacere saperlo. Dentro di me sento che non dobbiamo chiudere il nostro cuore alla consolazione che la natura ci offre, anche se capisco i tuoi sentimenti. A dire il vero, credo che tutti proviamo la stessa cosa. Rifiutiamo l'idea che qualcosa possa darci gioia. Se la persona a cui volevamo bene non è più con noi a condividerla, e ci sembra addirittura di tradire il nostro dolore quando scopriamo che dentro di noi si sta risvegliando l'interesse per la vita. Oggi pomeriggio ero al cimitero e ho piantato una piantina di rose sulla tomba di Matthew, disse Anna con espressione sognante. Ho preso un germoglio delle roselline bianche che sua madre aveva portato dalla Scozia tanto tempo fa. Quelle rose erano le sue preferite, così piccole e delicate sui loro gambi spinosi. Mi ha dato gioia piantarle sulla sua tomba. Ho sentito di fare una cosa per lui mettendogliele accanto. Spero che ci siano rose così lassù in paradiso. Forse le anime delle roselline bianche che ha amato per tante estati erano tutte là ad aspettarlo. Ora devo rincasare, signor Alan. Marilla è sola e quando cala il sole le viene una malinconia. Sarà anche peggio, mi sa, quando tornerai a scuola, commentò la moglie del pastore. Anna non rispose, le augurò la buonanotte e si incamminò lentamente verso Green Gables. Marilla era seduta sui gradini della porta di casa e la ragazza si mise accanto a lei. Alle loro spalle il battente era aperto, bloccato da una grossa conchiglia rosa che aveva, nell'interno lucido e screziato, le stesse sfumature di un tramonto sul mare. Anna raccolse un ciuffo di caprifoglio e lo infilò tra i capelli. Le piaceva la leggera fragranza che le aleggiava intorno alla testa ogni volta che si muoveva. Era come una benedizione che scendeva dall'alto. Mentre eri via, è passato il dottor Spencer, le disse Marilla. Mi ha detto che l'oculista arriva in città domani e ha insistito perché vada a farmi visitare gli occhi. Credo che mi convenga fare come mi consiglia e provare a risolvere il problema una volta per tutte. Gli sarò più che grata se mi darà un paio di occhiali adatti ai miei occhi. Non ti dispiace stare qui da sola mentre sono via, vero? Mi accompagna Martin con il calesse e c'è da stirare e da cuocere il pane. Starò benissimo. Verrà Diana a tenermi compagnia. Stirerò e preparerò il pane alla perfezione. Ormai non devi più avere paura che inami dei fazzoletti e metta l'analgesico nella torta. Marilla rise. Certo, allora avevi un talento naturale per combinare guai, Anna. Ti cacciavi sempre nei pasticci. In certi momenti ho pensato che fossi posseduta da un demone. Ti ricordi quella volta che ti sei tinta i capelli? Altro che, non lo dimenticherò mai, sorrise Anna, toccandosi la grossa treccia avvolta intorno alla testa. Adesso rido al pensiero di quanto mi preoccupavo per i miei capelli, ma neanche troppo, perché per me era un problema davvero molto serio. Le lentiggini e i capelli rossi mi facevano stare malissimo. Ora le lentiggini sono sparite e tutti sono gentili e mi fanno i complimenti per i miei capelli ramati. Tutti tranne Josie Pye, ovvio. Ieri ha avuto la cortesia di informarmi che le parevano più rossi che mai, o perlomeno che il vestito nero li faceva risaltare, e mi ha anche chiesto se chi ha i capelli rossi prima o poi si rassegna. Guarda, Marilla, con Josie Pye ho quasi deciso di lasciar perdere. Per accettarla così com'è, ti assicuro, ho fatto quello che un tempo avrei definito uno sforzo titanico, ma lei non vuole piacere a nessuno. Ah! Josie è una Pai, commentò asciutta Marilla, quindi non può fare a meno di essere sgradevole. È una missione. Gente del genere avrà anche una funzione nella società, immagino, ma non saprei spiegarti quale, proprio come non so a che scopo crescano i cardi. Josie ha intenzione di insegnare? No, l'anno prossimo tornerà la Queen's e anche Moody Spurgeon e Charlie Sloane. Jane e Ruby invece hanno già ricevuto l'incarico in una scuola. Jane a Newbridge e Ruby non so bene dove, a Ovest. Anche Gilbert Blythe comincerà a insegnare, vero? Sì, si limitò a rispondere Anna. È un gran bel ragazzo, commentò distrattamente Marilla. L'ho visto in chiesa domenica scorsa, aveva un'aria così adulta e virile. Somiglia molto a suo padre quando aveva la stessa età. John Blythe era proprio un bravo ragazzo, eravamo amici io e lui. La gente diceva in giro che era il mio spasimante. Anna alzò gli occhi, improvvisamente interessata. Oh, Marilla, davvero? E poi cosa è successo? Perché non vi siete... un litigio tra noi. E quando mi chiese scusa non volli perdonarlo. In realtà più tardi avrei voluto farlo, ma ero infuriata e volevo punirlo. Non ritornò più da me. I Blythe hanno tutti uno spirito volitivo e indipendente, però ti dirò, l'ho sempre rimpianto. Mi sono pentita di non averlo perdonato quando potevo. Allora c'è stato un momento romantico anche nella tua vita, osservò Anna con dolcezza. Eh sì, in effetti potremmo definirlo così. A vedermi non si direbbe, vero? Ma non si devono mai giudicare le persone dall'apparenza. Ormai tutti si sono dimenticati di me, John. L'avevo scordato perfino io, ma mi è tornato in mente domenica scorsa quando ho visto Gilbert. Capitolo 38. Una curva lungo il cammino. Il giorno dopo Marilla andò in città e tornò a Green Gables la sera. Anna aveva fatto un salto a Orchard Slope insieme a Diana e quando rientrò trovò Marilla in cucina, seduta al tavolo con la testa appoggiata su una mano. La vista di quel gesto di sfinimento e rassegnazione fece gelare il sangue nelle vene ad Anna. Non aveva mai visto la donna abbandonata e immobile su una sedia come in quel momento. Marilla, sei molto stanca? Sì, no, ah, non lo so, rispose lei fiacca, alzando lo sguardo. Forse sono un po' stanca, in effetti, ma non me ne sono resa conto. Non è quello il problema. Sei stata dall'oculista, cosa ti ha detto? Le chiese la ragazza preoccupata. Sì, ci sono andata. Mi ha visitato gli occhi e ha detto che se smetto di leggere, cucire e fare qualsiasi lavoro che possa affaticarli, se sto attenta a non piangere e porto con costanza gli occhiali che mi ha prescritto, la vista non dovrebbe peggiorare e il mal di testa passerà. Ma se non faccio come dice, diventerò completamente cieca entro 6 mesi. Cieca, Anna, ma ti immagini? Per un lungo minuto, dopo essersi lasciata sfuggire un'esclamazione di stupore addolorato, Anna non aprì bocca. Le sembrava di non riuscire più a pronunciare una sillaba. Poi, con la voce un po' incrinata, ma con coraggio, disse: Marilla, non scherzare. L'oculista ti ha dato una speranza, lo capisci anche tu? Se stai attenta, non diventerai cieca. E se questi occhiali ti faranno passare il mal di testa, sarà già un grande progresso. Una speranza, ribatté l'anziana donna amareggiata. Se non posso leggere né cucire, se non posso fare niente, cosa vivo a fare? Tanto vale essere cieca o morta. Quanto al piangere, quando mi sento sola e mi prende la malinconia, non riesco a trattenermi. Comunque stare a discuterne è inutile. Sii gentile, preparami una tazza di tè, per favore, sono davvero esausta e ti prego non dirlo a nessuno, almeno per adesso. Non sopporto l'idea che cominci ad arrivarmi in casa una processione di persone per chiedermi notizie sulla mia salute e per compatirmi. Dopo cena, Anna convinse Marilla ad andare a letto, poi salì in mansarda e si sedette vicino alla finestra, al buio, sola con le sue lacrime e il cuore pieno d'angoscia. Che tristezza! Era andato tutto storto dall'ultima volta che si era seduta a quello stesso davanzale la sera in cui era tornata da Charlottetown. Era piena di speranze, di gioia allora, e il futuro si prospettava felice e promettente. Le sembrava che fossero passati 1.000 anni, eppure, prima di mettersi a letto, sulle sue labbra era tornato il sorriso e nel suo cuore c'era di nuovo la pace. Aveva affrontato con coraggio la realtà, aveva capito quale fosse il suo dovere e l'aveva trovato amico, come sempre il dovere quando lo si guarda in faccia con la dovuta franchezza. Qualche giorno dopo, nel pomeriggio, Marilla rientrò a passi lenti dal giardino, dove si era fermata a parlare con un signore di passaggio, un uomo di Carmody che Anna conosceva solo di vista e che si chiamava John Sadler. La ragazza si chiese cosa potesse averle detto per turbarla tanto. Cosa voleva il signor Sadler, Marilla? La donna si sedette accanto alla finestra e la guardò. Nonostante tutti i divieti dell'oculista, aveva gli occhi pieni di lacrime e mentre parlava le tremò la voce. Ha sentito dire che voglio vendere Green Gables e vorrebbe comprare la tenuta. Comprare Green Gables? La ragazza si domandò se avesse capito bene. Ma Marilla, non avrai davvero intenzione di vendere Green Gables? Non c'è alternativa, Anna. Ci ho pensato e ripensato. Se i miei occhi fossero ancora a posto e con l'aiuto di un buon bracciante, potrei badare alla fattoria e agli affari. Invece così non sono in grado di farlo. Potrei perdere la vista del tutto o non farcela gestire le cose. O non avrei mai pensato che sarebbe arrivato il giorno in cui sarei stata costretta a vendere casa mia. Però le cose possono solo peggiorare e alla fine nessuno avrebbe più interesse a comprarla. Non abbiamo più un centesimo. Tutto il nostro denaro si è volatilizzato con il fallimento della banca e ci sono ancora conti dell'anno scorso che Matthew aveva lasciato da saldare. La signora Linde mi ha consigliato di vendere tutto e ritirarmi a pensione da qualche parte. Da lei, immagino. È un sollievo pensare che almeno tu hai la borsa di studio, Anna. Mi dispiace, purtroppo non avrai una casa dove tornare per le vacanze, ma so che te la caverai comunque. Marilla non riuscì più a trattenersi e pianse lacrime amare. Tu non devi vendere Green Gables, dichiarò Anna decisa. Oh, Anna, vorrei tanto non doverlo fare, ma sai benissimo anche tu che non potrei stare qui da sola. Impazzirei per le preoccupazioni e la solitudine, e la mia vista se ne andrebbe del tutto, poco ma sicuro. Non starai qui da sola, Marilla. Ci sarò io con te. Redmond, non ci vado. Non vai a Redmond? Marilla sollevò il viso affranto dalle mani e guardò Anna. Perché? Cosa stai dicendo? Esattamente ciò che ho detto. Non accetterò la borsa di studio. L'ho deciso la sera in cui sei tornata dalla città. Non avrai creduto sul serio che ti lasciassi qui sola con i tuoi problemi dopo tutto quello che hai fatto per me, vero Marilla? Ho riflettuto a lungo e ho fatto progetti. Adesso ti racconto. Per il prossimo anno il signor Barry ha intenzione di affittare la nostra fattoria, quindi non ti dovrai preoccupare né della terra né delle bestie e io comincerò a insegnare. Ho fatto domanda per un posto alla scuola di Avonlea, anche se dubito di poterlo ottenere perché so che il consiglio l'ha già promesso a Gilbert Blythe. In compenso potrei avere il posto alla scuola di Carmody. Il signor Blair me l'ha confermato ieri sera al negozio. Certo, non sarà piacevole e comodo come stare ad Avonlea, ma potrò abitare qui e fare avanti e indietro con il calesse ogni giorno, almeno nella bella stagione. Terremo un cavallo apposta per questo, ed inverno potrò tornare a casa il venerdì sera. Oh, sapessi, Marilla, ho già progettato tutto. Leggerò per te, ti terrò su di morale, così non ti annoierai e non ti sentirai mai sola. Staremo bene insieme, io e te. Marilla l'aveva ascoltata come se un sogno si stesse realizzando. Oh, Anna, con te qui potrei cavarmela benissimo, lo so, però non posso permettere che ti sacrifichi per me, sarebbe una terribile ingiustizia. Figurati, che sciocchezza, rise allegra Anna. Ma quale sacrificio? Non potrebbe esserci niente di peggio che abbandonare Green Gables, niente mi farebbe soffrire di più. Dobbiamo tenere per noi questa vecchia casa meravigliosa. Ho già deciso, Marilla. A Redmond non ci vado, resto qui e mi metto a fare la maestra. Non devi preoccuparti per me, neanche un po'. Ma e le tue ambizioni? No, non è cambiato niente, sono ambiziosa come prima. Soltanto l'obiettivo che voglio conquistare è diverso. Sarò una brava insegnante e salverò i tuoi occhi. Ah, ho anche intenzione di continuare a studiare in casa e di organizzarmi un piccolo corso di laurea personale. Sapessi, Marilla, ho mille progetti in mente. Per tutta la settimana non ho fatto altro che sfornare idee una via l'altra. Metterò il massimo impegno nella mia vita qui e sarò ripagata nel migliore dei modi. Ne sono convinta. Quando ho lasciato la Queens, il futuro che avevo davanti a me sembrava una strada dritta e già tracciata. Avevo la sensazione di poter vedere ciò che mi aspettava per miglia e miglia. Invece adesso c'è una curva nel cammino. Non so cosa troverò dietro la svolta, ma sento che sarà il meglio. E c'è un fascino speciale in quella curva in attesa, Marilla. Chissà come proseguirà il cammino quando sarò passata oltre. Per me ci saranno meravigliosi prati verdi e un gradevole alternarsi di luci e ombre, o magari nuovi panorami, nuove bellezze. E quali altre svolte, alture e vallate incontrerò da qui in poi? Sento che non dovrei permetterti di rifiutarla, mormorò Marilla riferendosi alla borsa di studio. Però non puoi impedirmelo. Ho 16 anni e mezzo e sono ostinata come un mulo, come ha detto una volta la signora Linde, rise Anna. Dai, Marilla, non commiserarmi. Non mi piace essere compatita, soprattutto se non ce n'è bisogno. Mi si riempie il cuore di gioia al solo pensiero di restare nella mia amata Green Gables. Nessun altro l'adora quanto noi due, perciò dobbiamo tenercela. Ah, oh, benedetta ragazza, si arrese Marilla. Mi sembra che tu mi abbia regalato una nuova vita. Forse dovrei impuntarmi e mandarti all'università, ma so che non ci riuscirei, perciò non ci provo neanche. Saprò ringraziarti per ciò che fai per me, Anna. Quando ad Avonlea si sparse la voce che Anna Shirley aveva rinunciato all'università, che sarebbe rimasta a casa e si sarebbe dedicata all'insegnamento, le chiacchiere si scatenarono. La maggior parte di quella brava gente, che non sapeva niente dei problemi agli occhi di Marilla, la considerava una decisione assurda. La signora Allan non la pensava così e glielo disse con parole talmente convinte che la ragazza si commosse. Anche secondo la signora Linde era una buona idea. Una sera andò a trovarle e trovò Anna e Marilla sedute sulla soglia di casa. Nel crepuscolo estivo, tiepido e profumato, amavano molto starsene così insieme quando calava il sole e le falene cominciavano a svolazzare in giardino, con il profumo della menta che si spargeva nell'aria appena velata dall'umidità della sera. Con un lungo sospiro di stanchezza e sollievo, al tempo stesso, la signora Rachel Linde depositò la massiccia figura sulla panca di pietra accanto alla porta, dietro la quale si arrampicava una fila di altee rosa e gialle. Oh, che piacere sedermi finalmente! È tutto il giorno che sono in giro e 90 chili sono un bel peso da portare per due piedi soli. È una grande benedizione essere magri, Marilla. Spero che lei lo sappia. Allora, Anna, mi è giunta voce che hai deciso di rinunciare alla borsa di studio per l'università. Mi ha fatto un gran piacere saperlo. In quanto donna sei istruita a sufficienza da ritenerti soddisfatta. Non approvo che le ragazze vadano all'università insieme agli uomini e si riempiano la testa di greco, latino e tutte quelle altre sciocchezze. Beh, a dire il vero, ho intenzione di studiare comunque latino e greco, signora Linde, la informò Anna ridendo. Frequenterò il mio corso di lettere proprio qui a Green Gables e studierò le stesse materie che avrei studiato all'università. La signora Linde alzò le mani in un gesto inorridito. Anna Shirley, ma così ti ucciderai? Assolutamente no, anzi, ne avrò un gran vantaggio. Comunque, non ho intenzione di esagerare, come dice la moglie di Josiah Allan. Starò nella media. Ma avrò un sacco di tempo libero nelle lunghe sere invernali e io non sono portata per il ricamo, i lavori di cucito. Insegnerò a Carmody, lo sa? No. Anzi, credo proprio che insegnerai ad Avonlea. Il consiglio di amministrazione della scuola ha deciso di assegnare a te il posto. Oh, signora Linde! Esclamò Anna, saltando in piedi per la gioia. Ma io credevo che l'avessero promesso a Gilbert Blythe. Infatti, era così. Ma appena Gilbert ha saputo che avevi fatto domanda anche tu, si è presentato. Ieri sera c'era una riunione a scuola, sai, e ha ritirato la sua richiesta suggerendo che venisse accettata la tua. Ha detto che andrà a insegnare a White Sands. Certo, ha rinunciato per fare un favore a te. Sapeva quanto desideravi rimanere con Marilla. E mi sembra un gesto molto gentile da parte sua, non trovi? Un gran sacrificio per giunta, perché a White Sands gli toccherà pagare l'affitto e sappiamo bene che con il suo stipendio aveva intenzione di continuare gli studi. Comunque, il consiglio ha deciso di affidare a te l'incarico. Quando Thomas è tornato a casa e me l'ha detto, ne sono stata molto felice. Forse non dovrei accettare, disse Anna con un filo di voce. Nel senso, non trovo giusto che Gilbert faccia un sacrificio del genere per me. Non credo che tu possa impedirglielo ormai. Il ragazzo ha già firmato l'accordo con il consiglio scolastico di White Sands. Quindi a questo punto, se anche tu rifiutassi, a lui non servirebbe. Perciò accetterà il posto, figurarsi. Oltretutto non c'è più nessun Pai tra gli alunni e sai che sollievo. Josie era l'ultima ed è una bella cosa che per questa generazione siano finiti. Negli ultimi 20 anni c'è sempre stato un Pai nella scuola di Avonlea e secondo me la loro missione era far soffrire i maestri e costringerli a ricordarsi che la Terra non era propriamente casa loro. Ma santo cielo, cosa sono tutti quei lampi e quelle luci là nella mansarda dei Barry? È Diana che mi manda segnali perché vada da lei, spiegò Anna ridendo. Sa, non abbiamo perso le nostre vecchie abitudini. Mi scusi, anche tu, Marilla, faccio un salto da lei. La ragazza corse come un cerbiatto giù per il pendio coperto di trifoglio, si inoltrò nella foresta stregata e scomparve sotto l'ombra degli abeti. La signora Linde la seguì con uno sguardo benevolo. In certi momenti è ancora una bambina. Ma in altri è molto adulta, ribatté Marilla con un momentaneo ritorno ai modi bruschi di un tempo. Anche se ormai l'asprezza non era più la caratteristica distintiva di Marilla, come la signora Linde riferì al suo Thomas quella sera, Marilla Cuthbert si è rilassata, caro mio. Il pomeriggio successivo, Anna andò nel piccolo cimitero di Avonlea per portare fiori freschi sulla tomba di Matthew e per annaffiare la pianta di roselline scozzesi. Si fermò oltre il tramonto perché le piacevano il silenzio e la pace di quell'angolo di mondo, con i suoi pioppi e il loro fruscio lieve come un mormorio amichevole e il fremito dell'erba che cresceva fra le lapidi. Quando decise di tornare e si incamminò lungo il pendio che scendeva verso il lago delle acque scintillanti, il sole era già calato e Avonlea si stendeva davanti a lei in una luce di sogno, come un luogo di pace antica. L'aria portava con sé la freschezza di un vento che ha soffiato sui prati di trifoglio dal dolce profumo di miele. Qui e là, attraverso gli alberi che la circondavano, brillavano le luci delle case. Più lontano si intravedeva il mare, viola, nascosto dalla foschia, con il suo ossessivo e instancabile mormorio. Il cielo a ovest era uno splendore di sfumature che si fondevano l'una nell'altra. Il lago le rifletteva, rendendo le tinte ancora più dolci e delicate. Tutta quella bellezza emozionò il cuore di Anna, che aprì le porte dell'anima. Caro vecchio mondo, mormorò, sei splendido e io sono felice di essere viva dentro di te. A metà del pendio, davanti alla fattoria dei Blythe, un ragazzo alto uscì fischiettando dal cancello. Era Gilbert. E il fischio gli si spense sulle labbra quando riconobbe Anna. Sollevò educatamente il berretto, ma sarebbe passato senza rivolgerle la parola se non fosse stata lei a fermarlo, tendendogli la mano. Gilbert, esclamò paonazza per l'imbarazzo, volevo ringraziarti per avermi ceduto il posto a scuola. Sei stato molto gentile, io l'ho apprezzato davvero molto. Il ragazzo accolse volentieri la mano che gli veniva offerta. Non è stato un gesto particolarmente generoso, Anna. Mi ha fatto piacere poterti fare un piccolo favore. Ora potremo diventare amici? Mi hai perdonato per quella vecchia offesa? Anna rise e cercò senza riuscirci di riprendersi la mano. Oh, ti avevo già perdonato quel giorno in mezzo allo stagno, anche se non lo sapevo. Che oca testarda che ero. Da allora, beh. A questo punto tanto vale che faccia una confessione completa. Ho sempre rimpianto di non avertelo detto subito. Oh, quindi diventeremo ottimi amici? Dichiarò Gilbert entusiasta. Io e te siamo nati per questo, Anna. Hai messo i bastoni fra le ruote del destino abbastanza a lungo. Noi due possiamo aiutarci a vicenda in molti modi. Continuerai a studiare, vero? Anch'io. Dai, ti accompagno a casa. Quando la ragazza entrò in cucina, Marilla la osservò con curiosità. Chi è salito per il sentiero con te, Anna? Gilbert Blythe, rispose lei, prendendosela con se stessa perché era arrossita. L'ho incontrato sulla collina dei Barry. No, non credevo che tu e Gilbert Blythe foste tanto amici da restare mezz'ora a chiacchierare davanti al cancello, commentò Marilla con un sorrisetto ironico. Infatti, non lo siamo mai stati. Eravamo ottimi nemici, in realtà. Ma abbiamo deciso che per il futuro ha molto più senso diventare buoni amici. Siamo davvero rimasti per mezz'ora a parlare? Avrei detto qualche minuto. Certo, Marilla, in fondo dobbiamo recuperare 5 anni di conversazioni mancate. Quella sera Anna rimase seduta a lungo accanto alla finestra della mansarda, godendosi la gioia serena che sentiva nel cuore. Il vento faceva stormire dolcemente le foglie dei ciliegi e il profumo di menta saliva fino a lei. Le stelle brillavano sopra le cime degli abeti nella valletta e la luce alla finestra di Diana brillava attraverso il solito varco tra i rami. Rispetto alla sera in cui, appena tornata dalla Queens, si era seduta in quello stesso posto, l'orizzonte di Anna si era fatto più piccolo. Ma, anche se il percorso che l'aspettava era più stretto, ora la ragazza sapeva che lungo il cammino sarebbero sbocciati per lei i fiori di una tranquilla felicità. Avrebbe avuto le gioie di un lavoro onesto e ben fatto, delle aspirazioni che le erano congeniali e dell'amicizia con tanti spiriti affini al suo. Niente e nessuno avrebbe mai potuto toglierle il diritto di fantasticare, né sottrarle il suo immaginario mondo di sogni. E poi c'era sempre quella curva lungo il cammino. C'è Dio in cielo e il mondo è tranquillo, mormorò Anna con la sua voce dolce. Fine.